39° giorno del massacro di Gaza, martedì 14 novembre 2023. Ho contattato mia madre, Zainab Al-Ghunaimi, questa mattina, insieme a coloro che sono con lei. Sono ancora vivi e pieni di speranza, anche se questa speranza è piccola e soffocante. Abbiamo parlato con una chiamata internazionale, poiché non c'è internet nella città assediata di Gaza e nel suo nord. La situazione è durissima. Mi ha detto grazie a Dio che 2 giorni fa sono riusciti a lasciare il suo palazzo e la sua strada, insieme a quelli che erano con lei e a tutti i vicini, perché gli scontri erano molto vicini a loro, nel quartiere Al-Nasr e non lontano dalla zona del complesso ospedaliero Al-Shifa. E oggi, carri armati e postazioni di cecchini israeliani sono già arrivati sotto l'edificio in cui viveva. Se non se ne fossero andati, oggi sarebbero tutti martiri o dispersi. Mia madre è ancora nella sua città di Gaza, in quello che ora chiamano il nord, ed è in un posto relativamente sicuro, ma non esiste un posto veramente sicuro nella città assediata di Gaza e nel suo nord, ma nemmeno nella zona del sud. Quanto al percorso sicuro che tutti mi chiedono e mi invitano a convincere mia madre e chi è con lei a intraprendere oggi, prima di domani, non è così sicuro come si pensi. Il percorso a piedi, via terra, è aperto solo per 3 ore. Devono camminare velocemente o fare jogging e correre per poter coprire la distanza, oltre ad aspettare in fila la mattina prima che la strada si apre. Quando ho chiesto a mia madre se poteva provare ad uscire, mi ha risposto incredula: com'è possibile che io a questa età e le persone che sono con me possano correre così? Stavo per scivolare mentre uscivo di casa con i sacchi della spazzatura e abbiamo raggiunto la nuova destinazione con molta difficoltà. E se non fossimo arrivati entro l'ora specificata dall'occupante, cioè le 16, saremmo stati assassinati, visto che l'esercito israeliano inizia a bombardare dalle 16 e 5 minuti. Mia madre ha 70 anni, ci sono persone più anziane di lei e altre più giovani, e ci sono anche tanti bambini con loro. Come potevano correre e inseguire la speranza di sopravvivere in questo modo? Oggi a Gaza piove, e il vento scuote le case bombardate e le macerie e le strade distrutte si trasformano in torrenti di fango. Oltre a non poter trasportare molte cose, i soldati israeliani ai posti di blocco possono chiedere loro di lasciare ciò che trasportano e proseguire senza nulla. Quanto a ciò di cui mia mamma si è soffermata di più durante la telefonata è stata l'acqua e la scarsità, sia per bere che per l'uso quotidiano, e di alcuni che con lei soffrivano di infezioni e malattie dovute alla mancanza d'acqua, al punto che alcuni erano incapaci di entrare in bagno a causa dell'eccessiva disidratazione dell'intestino e della vescica. Mia madre è rimasta in piedi per 2 giorni interi, mentre i suoi messaggi quotidiani venivano interrotti, cercando di procurarsi l'acqua, sia per bere che per scopi di igiene personale, per lavarsi o per cucinare. Si alza in piedi, cerca e chiama quelli del quartiere in cui è... Si alza in piedi, cerca e chiama quelli del quartiere in cui si è rifugiata per fornire loro l'acqua attraverso tubi molto stretti e deboli. Molti pagano per 1 litro d'acqua in più e tutti cercano di razionalizzare i consumi. Quindi usano il bagno tutto il giorno senza scaricare fino a fine giornata, quando versano l'acqua una volta per motivo di pulizia e per evitare ulteriori problemi igienici. Ma non si sa se i tubi di plastica difficile da collegarsi continueranno ad arrivarci dai quartieri circostanti e se ci sarà abbastanza acqua per i prossimi giorni. Dopo aver ascoltato tutto questo, vi dico che è viva e vive con un barlume di speranza, perché è mia madre che non riconosco senza la speranza. Ma non so sinceramente come questa flebile speranza possa sopportare tutta questa umiliazione, questa disperazione e questo dolore. Farak Barkawi, figlia di Zainab al-Ghunaimi, assediata durante l'aggressione israeliana a Gaza City, 14 novembre 2023.